Linee d'ombra di Matteo Caccia. È la puntata speciale del sabato sera di Linee d'ombra, il programma che vi racconta tutti i giorni le vostre storie, storie vere di avvenimenti, di episodi che hanno un confine nel mezzo, che segna un prima e un dopo. In questa puntata speciale però noi vi raccontiamo la parte finale di ogni puntata di Linee d'ombra, che è in onda alle 15 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, e all'alba, la mattina all'alba, attorno alle 5 del mattino qui su Radio 24. Vi dicevo, in chiusura noi vi raccontiamo una storia che stiamo raccontando a puntate, la storia di un giovane uomo che scappa dalla sua città per una stupidaggine. Parliamo di 70 anni fa, è il 1952, scappa da Venezia e finisce in Francia, e lì viene liberamente, diciamo così, liberamente forzato ad arruolarsi nella legione straniera. Quello che gli succede è una serie di cose incredibili, fino a che a un certo punto si ritrova a 19 anni, quasi senza nemmeno un diploma e senza aver mai visto il mondo, in Indocina a combattere una guerra sporchissima, e qui siamo con lui. Na San, 6 dicembre 1952, papà carissimo. Spero mi scuserai se non t'ho scritto prima, ma t'assicuro che m'è stato assolutamente impossibile. Lo stesso giorno che ti scrissi l'ultima mia, sono uscito in pattuglia e l'indomani, come sono rientrato, abbiamo fatto saltare il posto munizioni. Pressati da due reggimenti di Viet Minh, abbiamo ripiegato per circa 80 chilometri. Inutile ti scriva com'è stata la ritirata. Basta pensare agli 80 km in montagna in mezzo alla giungla in due giorni. Avrebbero potuto attaccarci e fare un macello, ma non si sa perché non l'hanno fatto, e Dio mi ha dato la forza di tirare avanti sino al campo d'aviazione. Il peggio è che, come siamo arrivati al campo base di Sona'a, stanchi, sporchi, stracciati, ci attendevano altre compagnie di legionari e ci siamo appostati sopra le montagne per protezione del campo d'aviazione. Qui, naturalmente, era tutto da fare. Blocos, dei bunker sotterranei scavati nel terreno, trincee, piantare quel dannato filo spinato, insomma 8 o 9 ore al giorno e sotto il sole che ti brucia le corna. Pensa che alla notte invece fa freddo. Ci hanno attaccato due volte molto seriamente, ma eravamo ben piazzati e con l'aiuto dell'artiglieria se ne sono andati via. Giorno e notte si vive con ansia, perché non sappiamo cosa fanno i fratelli scalzi. Sinora non mi è capitato nulla e spero che il buon Dio abbia misericordia e mi aiuti. Molto probabilmente passerò qui Natale, Capodanno ed Epifania, tutte feste tanto care da noi. Purtroppo ci sarà un vuoto. Per la prima volta nella mia vita non sarò presente alla lettura delle letterine. Ad ogni modo, spero che tra la gioia di quelle meravigliose feste pensiate un po' anche a quel tizio che dorme per terra, nella trincea, con un occhio chiuso e l'altro aperto e quel cuore sempre sospeso. Oggi nevica. Pensa, 3 ore fa faceva caldo da crepare. E così si lavora poco e io posso sbizzarrirmi come voglio a scrivervi. Solo che fa freddo e non ho che una camicia e un paio di pantaloni. Il resto l'ho buttato, ritirata facendo. Mi dispiace di non aver saputo prima dell'amico di Giovanni. Avrei potuto andare a trovarlo nei giorni di stop che feci a Saigon. Ad ogni modo, oggi o domani gli scriverò. Giovanni Zanella è un cugino di Antonio. Conte era amico di Giovanni Zanella. Il dottor Luigi Conte, che poi rintraccia Antonio, gli scrive, che gli dice, viene nel Vietnam, su in Indocina, un giornalista famoso, eccetera, parla con lui, raccontagli pure, eccetera, eccetera, che poi il giornalista non è più arrivato. In quanto a correnti contrarie o cambiamenti di idee, non temere, sono saldo nei miei principi e difficilmente mi potranno smuovere. Non scrissi a mamma perché temevo di spaventarla, ma vedo che è più forte di quel che supponevo. È la fede molto grande che vi regge, ne sono certo. E anch'io, sai, spesso credo che sia la stessa cosa nei miei riguardi. Ti abbraccio e ti bacio. Tony. Ci sono anche delle foto di villaggi dati a fuoco. E c'è l'appunto di Antonio, per esempio, che dice: così noi ci comportiamo, questo è quello che lasciamo dietro di noi, perché man mano che passava il tempo aumentavano, al di là delle difficoltà della vita in trincea, della guerra, di quello che doveva sopportare lui, comunque aumentava anche, come dire, la sua riflessione su quello che era la situazione in generale, il comportamento, il senso della guerra che stava conducendo la Francia e in particolare i metodi della legione straniera. Na San, 8 dicembre 1952. Carissimo papà, prima che dimentichi, do risposta alle tue domande. Di Martin ne so quanto te. So che è arrivato, per questo pensavo fossi te, a Nuvion per prendermi. Io ero di guardia. Sono stato avvertito, ho buttato il fucile e sono scappato. Dopo un'oretta di corsa, sono stato preso e imbarcato ad Algeri. Di lui non so nulla. Ho scritto a casa sua e a Saida, ma niente. Credo si trovi al fresco, per colpa mia. Mi hanno fermato, l'hanno scoperto, è stato beccato e da lì è finito ai lavori forzati. Adesso non mi ricordo ancora cosa mi chiedevi, abbi pazienza, le lettere si trovano in fondo al sacco e fra pochi momenti fa scuro. In quanto alle fotografie, me le farò al ritorno dall'operazione che sembra si prolunghi. I Viet sono sempre attorno a Na San e ci seccano le scatole con scaramuglie facendoci stare svegli con questo freddo tutta la notte. 12 ore fa, un mio amico romano è stato accecato da schegge di mortaio. È il 25esimo ferito nella mia compagnia e per fortuna solo 5 morti. Quello che ho visto sinora fare dai legionari nei villaggi, dei morti, non lo posso scrivere. È troppo osceno. Forse un giorno, quando ritornerò, potrò dire che cos'è la legione in Indocina e tra che gente e come vivo. A questo proposito ho chiesto a Gianni di leggere un passo del diario del padre. Povera gioventù, buttata allo sbaraglio a difendere una terra che non è loro, a devastare villaggi di primitiva, pacifica gente che vive di riso e di bufali, che della nostra esaltata civiltà non conosce che il grande male che li si fa. E come distruggere inermi nidi di poveri uccelli e disperdere i miseri stecchi. In un villaggio distrutto, Antonio mi scrive di aver raccolto un antico libro, scritto su sottili cortecce di legno pregiato. Sarà un libro del buon Buddha, e io penso a quelle scarne mani di vecchio indigeno che avrà sfogliato con altissima venerazione leggendo i versetti ai figli e dai nipoti, e sarà di notte tornato sul luogo del villaggio distrutto a cercarlo, sconsolato, fra l'infrante abbattute capanne. Civiltà, civiltà, chi osa ancora chiamarti in quest'odio barbaro e folle? Caro papà, scusami se ti scrivo. So che vi faccio del male e so che alla sera, mentre faccio la guardia, mi pento di quello che ho scritto, ma che vuoi, non mi so trattenere. Ma forse è meglio che tu sappia su che fili è sospesa per il momento una delle più grandi manovre che si sia fatta in Indocina. Sappi che il mio morale è sempre alto e se tu parli spesso di mamma e fratelli sono sempre nella mia mente e niente potrà cambiare, né ora né mai. Io credo in Dio, credo nella sua misericordia e nel suo perdono ed è Lui che mi dà la forza di sopportare queste perizie troppo forti per me. Ti abbraccio e ti bacio col più grande affetto che un figlio può avere. Buone feste, Tony. Gianni carissimo, grazie delle tue righe. Sono contento che ti ricordi di me e ti diverti a vedere Ciccio e Checco recitare. Ieri sono uscito con 4 compagni per ammazzare un bufalo sul lago e abbiamo visto una coda e un sedere fuori e abbiamo tirato. Che corse e che fughe. Era un elefante dei cinesi. Ciao, Tony. Carissimi Ciccio e Checco, voilà a voi. 2 righe solamente perché tra una mezz'oretta me ne esco fuori in pattuglia. Spero vada tutto bene. Con piacere ho letto della vostra riuscita al teatro, quanto vorrei essere con voi per darvi una mano. Te, Checco, cominci di già a fare dei quadri. Accidenti che progressi che fai. Spero che ne farai altrettanti a scuola, ma come privatista è bello, sai? Io ne so qualche cosa. Te, Ciccio, ti dai sempre da fare per le tue conquiste. È certo che se riesci a sopportare quello stronzo di Silvio sei un fenomeno. Era almeno troppo sballato. Come gli spaccherei la testa. Non lo posso proprio vedere. Ho inteso che hai preso il ramo di ingegneria, ostrega che osso, ma ce la farai. Non so come ringraziarti per la tessera. Credimi, Ciccio, non sono ancora degno, e se te lo dico io vuol dire che lo so. Ad ogni modo, caro Ciccio, la gradisco con tutto il cuore, è la tessera che mi darà coraggio guardandola nei momenti che sei a zero con tutto. Auguri, amore e salutoni. Checco Francesco. Sì. L'artista vero poi di casa. L'artista vero è di casa. È diventato architetto, ma anche scultore, pittore. Antonio lo stimola, lo sprona a seguire, a seguire questa passione. Era subito il fratello, nato subito dopo Antonio. Mentre con Gian Domenico, con Ciccio che era maggiore, aveva, come dire, un rapporto un po' più così, con Francesco aveva un rapporto un po' più da fratello, appunto da fratello maggiore. che con Gianni diventa, essendoci 9 anni di differenza, diventa quasi più che un fratello maggiore. Cara Anna, avete fatto bene a scrivermi. A Scaglioni sarebbero state troppe le lettere. Ti garantisco però che questi 2 giorni sono stati proprio belli. Lavoravo con più lena, pensando che in tasca avevo delle lettere che attendevano ad essere aperte. In quanto ai lanci col paracadute mi sembrava di essere stato chiaro, non ne faccio più. Sono stato scartato, per fortuna. Ora sono nella compagnia di marcia, quella sempre in viaggio con la macchina di San Francesco o Sant'Antonio, non mi ricordo più. Tu mi parli che non devo pensare che la sfortuna si accanisca contro di me. Chiamala come vuoi, ma sappi che nessuno qui ha 19 anni e così poca istruzione come ne ho io. E di fatto lui era l'unico italiano che è partito, come racconta, e l'hanno spedito in Vietnam. Non solo, ma quando è arrivato in Vietnam l'hanno mandato in un reggimento che era stato distrutto più volte dai vietnamiti e che doveva essere in prima linea. Lui da un giorno all'altro lo stesso è arrivato, 3 giorni dopo era sul fronte e i vietnamiti stavano facendo una controffensiva e li hanno scacciati. Questa era stata la sua prima esperienza di guerra. Quindi speravano che morisse subito e lui è stato duro e resistito fino alla fine della guerra in realtà. Ma credo che l'idea dei francesi fosse quella, cioè togliamocelo di torno, basta. Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i padri eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24. Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto. Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo! Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11:45 con Maria Piera Ceci e i padri eterni Matteo Bussola e Federico Taddia. Linee d'ombra. Siamo davvero in mezzo alla giungla dell'Estremo Oriente e siamo con Antonio Cocco, che fa delle cose che non racconta in queste lettere, ma chiaramente le cose più truculente, più truci le tiene per sé. Alla sua famiglia cerca di dare sempre il lato migliore, anche se ogni tanto si lascia andare e chiede loro di ricordarlo per la vita terribile che sta facendo. Na San, Vietnam, 16 dicembre 1952, credo. Carissimo babbo, i dati che parecchio tempo fa ti avevo dato erano sbagliati. Noi siamo al campo di aviazione, se così si può chiamare, Na San. Credo ne avrete sentito parlare per radio o per qualche giornale. Mi sorprende che non riceviate ancora mie notizie. Sono 5-6 giorni che scrivo ininterrottamente. È vero che ho smesso per una decina di giorni, ma non è stata colpa mia. Troppo lavoro, spostamenti, attacchi. Si mangia troppo male qui, siamo lontani troppo dal mondo civile. Sopra un cucuzzolo a destra, un atterraggio d'aviazione, tutto intorno montagne e giungla. Dio mio che stanco che sono di questa prima linea. Però ci hanno dato una soddisfazione, hanno stampato un giornale per noi soli, per i combattimenti svolti a Na San. Ti metterò nella lettera la facciata del giornale e ti farò pure un piccolo schizzo di dove siamo. Seguirà poi un'altra lettera con le foto del giornale e delle piastre dei fratelli scalzi. Sono abbastanza rare e spero non mi sequestreranno la lettera. Domani, nei momenti di riposo, riprenderò a scrivere. Ti abbraccio e ti bacio, Tony. Tony era buono ma aveva un gran coraggio. Era pronto ad accettare qualunque sfida e a misurarsi su qualunque terreno gli venisse proposto. Non era capace di star fermo. C'era sempre, come dire, il fare di misurarsi per raggiungere un obiettivo più presto possibile. Io non credo che queste dimostrazioni di coraggio che lui dà durante la guerra, durante il conflitto, negli scontri in cui si è trovato coinvolto, siano dovuti a un cambiamento di atteggiamento suo nei confronti della Francia o della guerra o delle cose, ma di un desiderio suo di dimostrare a se stesso e anche a chi gli stava attorno che lui ci sapeva fare, che lui non aveva paura. Lui poi alla fine viene decorato non gliene frega niente della decorazione francese, però è soddisfatto perché lui era riuscito a fare quello. Così quando racconta che sono rimasti rintanati in una galleria per 7 ore, una galleria dentro una montagna, ma non una galleria, era una galleria circondata da acquitrini per 7 ore, ti racconta di come è stata dura quella missione, di come sono riusciti a venirne fuori vivi per il rotto della cuffia, però è anche orgoglioso di quello che aveva fatto, ma non perché stava combattendo una guerra giusta, perché lui, Tony Cocco, aveva dimostrato ai suoi commilitoni che aveva coraggio e aveva dimostrato a se stesso che sapeva superare la sfida. Tant'è vero che poi, a dimostrazione che a lui della Francia, della Legione, non gliene fregava niente, quando gli hanno proposto, era già Dien Bien Phu e siamo a ridosso, cioè nell'inverno, gli avevano proposto di andare a fare il corso per caporale, lui ha rifiutato perché non voleva lasciare i suoi amici. 18 dicembre 1952, niente di nuovo, domani mattina ritorno a base. Di Fratelli Scalzi nemmeno l'ombra. Il tenente dice che cercano dall'altra parte d'attaccare, meglio così. Anche questa volta mi è andata bene. Spero che domani troverò vostre notizie, ne sento la mancanza. Il mio morale va come sempre, a sbalzi, e dell'asma non mi posso lagnare. Come delle altre e molte malattie del luogo. State tranquilli anche voi, che io cercherò di cavarmela il meglio possibile. Ti abbraccio e ti bacio. Tony. Na San, Vietnam, Marisa cara. Ho letto con piacere la tua lettera che arriva sempre e molto a proposito, pochi minuti prima di partire in pattuglia. Ho appena scritto a papà e una lunga lettera a mamma ed ora è la tua volta. Ho ancora un'oretta di tempo. Vorresti che io ti scrivessi le mie impressioni di questo paese e del mio viaggio e va bene, in poche righe te la racconterò. Un mese di nave, come militare, ti posso garantire che non è molto edificante, tuttavia, grazie ad uno chef, ho avuto modo di visitare Port Said, Suez, Djibouti e addirittura Colombo. Mi accorgo però che sono insensibile ora alle bellezze della natura. Sì, ammiro, vedo che è bello, ma non provo nulla, sono freddo a tutto. Ceylon, ad esempio, è meravigliosa, le isolette che si vedono prima e dopo Colombo sono incantevoli. Saigon è una città immensa, a tratti ti sembra d'essere in Europa, grandi case, alberghi immensi, cinema modernissimi e a volte ti fa paura. Strade strettissime, case basse, dove si vede la gente che mangia, dorme e fa anche qualcos'altro. Là si vede il vero intrico cinese e il loro modo strano di vivere. La gente ti guarda con quegli occhi piccoli e freddi e non capisci se ti sia ostile oppure no. Non saprei proprio dirti che effetto mi ha fatto Saigon. Certo che è una città stranissima per uno che non ci sia mai stato. Io ho avuto modo di visitarla quasi tutta, in fretta, con i pus pus. Ora sono in mezzo alla foresta, o giungla. Ti assicuro che è molto bella a vederla, ma quando ti ci devi camminare, beh, addio valigia. Qui vivono ancora allo stato primitivo. I villaggi sono fatti in capanne di foglie sollevate da terra, gli uomini e le donne marciano seminudi con stranissime capigliature. L'arma per ammazzare la selvaggina è ancora la freccia o il kup kup, una specie di spada affilata. Vedessi come marciano sugli alberi, altro che Tarzan, come animali. Ci sono moltissime scimmie e certe molto grosse e schifose. Ci sono serpenti in quantità, tra cui il pitone e il boa. Non riesci a distinguere se sono liane, foglie che pendono oppure serpenti. Ti fanno fare delle corse da primato. Dicono ci sia il leopardo, ma io non ne ho ancora visto nessuno. Molte iene, bufali. E poi ci sono gli elefanti, fanno da trasporto nei villaggi. Ecco le mie impressioni sterili del luogo. So bene che se avessi visto queste cose come civile, come turista, sarebbe tutta un'altra cosa. Ho fatto il possibile per scrivere bene e scrivere come scrivevo in Africa, da romanzo, diciamo così. Ma vedo che molte cose sono cambiate. La mia testa non è più quella di prima. Certe volte ci sembra di impazzire tutti. Che vuoi, è ormai un mese che siamo qui, sopra questa montagna, e sai com'è? Sempre sotto pressione, lavoro, sparatorie e aspettative, i nervi a volte cedono. Sapessi che effetto fa sparare su una persona a sangue freddo come sono stato costretto a fare, e fucilare dei poveri disgraziati che combattono per un ideale e che sinceramente a me non hanno fatto nulla. Questo è il concetto, quando prima parlavamo e ti dicevo, lui è comunque una guerra che lui continua a non sentire sua, anzi, e ci sono i momenti in cui sembra lanciarsi nella battaglia per trasporto, ma è un trasporto, come dire, è una roba individuale di sfida, di incapacità di star fermo, voler vedere fin dove sopporta la paura e anche le privazioni. Certo. Perché lui, secondo me, in alcuni momenti, poi, quando le ha superate le privazioni, le difficoltà, c'ha una dose certo. Aumenta l'autostima, cioè sì. È un ragazzo. Stop, altrimenti cado troppo nel tragico. Vi auguro a tutti, per l'ennesima volta, buone feste. Vi abbraccio, Tony. Seguite così anche questa puntata speciale di Linee d'Ombra, quella del sabato. Vi ricordo che se avete voglia di mandarci la vostra storia potete farlo tutti i giorni, lineedombra@radio24.it, e se per caso avete voglia di partecipare al nostro speciale di Linee d'Ombra dell'ultimo giorno dell'anno, il 31 di dicembre alle 23, va in onda una puntata speciale di Linee d'Ombra che è dedicata a tutte le cose non dette di questo 2020. Accompagniamo verso la chiusura di questo anno incredibile per certi versi del 2020, alle 23 appunto dell'ultimo giorno dell'anno, con delle vostre storie di cose che per uno strano motivo, per paura, per mancanza di possibilità, non avete detto, non avete raccontato a qualcuno. Mandatecele lineedombra@radio24.it, oppure con un messaggio vocale, con un racconto audio al 3315755721, e ci sentiamo poi il 31 dicembre alle 23. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!